verso la trappa della Neilier. Nuovi sogni di solitudine. La promessa di Don Vianney che non avrebbe più abbandonato Ars non fece dimenticare ai buoni parrocchiani del santo l'angoscia nella quale li aveva gettati nel settembre del 1843. E quando 5 anni dopo il padre Leonardo, venerando cappuccino del convento di Brotteux di Lione, ricevette Don Vianney nel terz'ordine di San Francesco, i suoi parrocchiani manifestarono vive inquietudini, temendo che partisse per farsi cappuccino. La voce pubblica non era senza fondamento, perché Don Vianney aveva realmente espresso al padre Leonardo, a cui si era più volte confessato, il desiderio di entrare nel suo ordine. Il buon religioso non si lasciò tuttavia accecare dal sogno di una così bella conquista e gli fece intendere che avrebbe fatto maggior bene rimanendo in parrocchia che entrando in un convento. E quando il santo insistette di nuovo, il padre Leonardo si limitò a spiegargli in che cosa consiste il terz'ordine francescano e gliene diede la regola. Poco dopo, Don Vianney domandava l'abito dei terziari con i migliori dei suoi parrocchiani che si affrettarono a seguire il suo esempio. 2 anni prima, l'8 dicembre 1846, il padre Aymar, religioso marista e futuro fondatore della Congregazione del Santissimo Sacramento, lo aveva già ricevuto nel terz'ordine di Maria, appena fondato dal padre Giovanni Claudio Colen, già suo condiscepolo a Verrières e a Sant'Ireneo di Lione. Se vi era un pericolo di partenza, stava proprio in questo. Ma coloro che avevano tremato al pensiero di essere abbandonati, di ciò non si accorsero neppure. Giovanni Claudio Colen, suscitato da Dio per stabilire prima in Francia e poi nel mondo intero la Società di Maria, godette sempre l'ammirazione di Giovanni Maria Vianney. Nati ambedue col desiderio del nascondimento e della semplicità e con il gusto della più tenera devozione alla Santa Vergine, si compresero subito e rimasero sempre amici fedeli. Il padre Colen mandava spesso i suoi religiosi a consultare il suo amico di Ars e Don Vianney approvava con entusiasmo le iniziative del fondatore dei Maristi. E quando partirono i primi missionari per l'Oceania, fu Don Vianney che si occupò a cercare loro i mezzi necessari dopo di averli già confortati con l'intercessione della sua preghiera. Ma in mezzo ai suoi lavori apostolici lo tormentava continuamente il pensiero della solitudine e del deserto dove avrebbe pregato Dio a piacimento. Ma dove trovare questo deserto se Monsignor De Vie aveva già dichiarato che non avrebbe mai permesso a Don Vianney di lasciare la sua diocesi? Era sorto un raggio di speranza quando nel 1842 il padre Colen aveva pensato di fondare la casa dell'adorazione perpetua per coloro che amanti della vita solitaria si dedicassero solo alla preghiera e alla penitenza. Riuscito vano un primo tentativo a Marcellange nel dipartimento dell'Allier nel 1850, la Società di Maria fece acquisto di una proprietà chiamata Neilier, situata presso Saint-Symphorien-sur-Coise, a 45 km da Lione. Quella sede, posta fra graziose colline e lontana da ogni rumore, sembrava veramente collocata il luogo ideale per religiosi contemplativi. Non erano mancati gli incoraggiamenti di vari prelati e neppure quello più autorevole di Monsignor De Vie, vescovo di Belley, che determinarono il padre Colen a fare i preparativi necessari per poter ricogliere su questo tabor una dozzina dei suoi religiosi, ai quali si sarebbero aggiunti molti ecclesiastici di Francia e d'Inghilterra che avevano domandato di far parte di questa nuova opera. La domenica 16 maggio 1852, 7 padri e 5 confratelli coadiutori si rinchiusero a Nostra Signora della Neilier e cominciarono ad osservare quel silenzio perpetuo che è uno dei punti fondamentali della loro regola. Tutte queste cose vennero a conoscenza di Don Vianney e gli diedero argomento per nuovi sogni. Le sue speranze furono ravvivate da un avvenimento non del tutto imprevisto. Nel 1850 Monsignor De Vie, vecchio di 84 anni, di cui 30 spesi in un lavoro episcopale laborioso, aveva ottenuto dal Sommo Pontefice un coadiutore nella persona di Monsignor Giorgio Chalandon, lionese, allora vicario generale di Metz, che fu consacrato a Bellay il 12 gennaio 1851. A questa notizia, racconta la baronessa di Belvey, Don Vianney dimostrò una grande soddisfazione per la speranza che il nuovo vescovo lo avrebbe autorizzato a ritirarsi. Il 25 luglio 1852, due mesi dopo che fu iniziata la vita cenobitica della Neilière, Monsignor Devi veniva chiamato a Dio e Monsignor Chalandon, prima vescovo titolare di Taumacum, gli succedeva a Bellay. Il santo pensava che in questo modo tutti gli ostacoli fossero tolti e sognava ormai una nuova fuga fino alla casa della Neilière, ove poter piangere la sua povera vita e finire i suoi giorni nell'adorazione e nella penitenza. Fu allora il fondatore stesso, padre Colin, messo al corrente dei disegni di Don Vianney, lo consigliò a nulla precipitare, ma ad attendere l'occasione favorevole. Il nuovo coadiutore del curato d'Ars. E sembrò che questa occasione favorevole si presentasse nel settembre dell'anno 1853. Don Vianney si andava persuadendo che non gli avrebbero lasciato a lungo il coadiutore. D'altra parte anche la popolazione non aspettava che la partenza di questo prete dal carattere scorbutico. Don Raimond stesso, convinto ormai di lusingarsi invano di essere un giorno parroco di Ars, chiese il suo trasferimento. Monsignor Chalandon gli cercò un sostituto nella società appena fondata di Pont-d'En, della quale era superiore il canonico Camelet, già tanto stimato dal santo, il quale aveva avuto occasione di apprezzare il suo talento e il suo zelo durante il giubileo del 1847. Il vescovo di Bellay pensò a ragione che a Don Vianney, circondato da folla ognor crescente, era necessario un coadiutore adatto al suo genere di ministero e che nella stagione dei pellegrinaggi fosse in grado di invocare l'aiuto dei suoi confratelli sempre pronti a venirgli in soccorso. La scelta cadde su Don Giuseppe Toccanier, che il canonico Camelet diceva il più indicato per questo posto difficile. Nel 1853 Don Toccanier non aveva che 31 anni. Di aspetto robusto e sano, sembrava fare contrasto con la debolezza fisica di Don Vianney, ma la sua eloquenza viva, diretta, personale e semplice ricordava quella del santo. In più, la sua pietà, bontà ed affabilità concorrevano a far credere che il posto più indicato per lui fosse vicino a Don Vianney. Gli esercizi spirituali in quell'anno ebbero inizio nel seminario teologico di Bru il lunedì 29 agosto e per questa occasione si incontrarono Don Toccanier e Don Raimond. Il vicario generale, Monsignor Poncet, notificò a Don Raimond la sua nomina a parroco di Jaillat e il canonico Camelet comunicò a Don Toccanier che era stato destinato come vicario coadiutore residente alla parrocchia di Ars. Progetto di fuga a Nostra Signora della Neilière. Caterina Lassagne ha deposto che Don Vianney il 1 settembre, nulla ancora sapendo di tutti questi disegni, in un incontro, in occasione del pranzo, le aveva detto: «Penso che questa volta devo partire. Mio cognato Melen, che abita alla parrocchia di Sant'Ireneo a Lione, mi aspetta. Partirò lunedì notte. Vi prego, non dite nulla a nessuno». «Ma, signor curato, non dovete partire», rispondeva la povera Caterina, e gli ricordava una storia vecchia ormai di 10 anni. Il suo soggiorno a Dardilly, le folle che lo cercavano, il ritorno così commovente ad Ars, tutto però sembrava inutile. La decisione aveva tutta l'aria di essere irrevocabile. Il vescovo rispose: «Non ha preoccupazioni per me, ha abbastanza preti». Nel pomeriggio del sabato giunse il vicario generale Monsignor Poncet, accompagnato da Don Raimond e Don Toccanier, e il buon curato li ricevette affabilmente pur dimostrandosi molto preoccupato. Venuta la sera, il vicario generale gli espose i desideri del vescovo per la sua parrocchia. Il santo avrebbe avuto ormai a sua disposizione l'aiuto che poteva desiderare. Messesi così le cose, Don Vianney non fece più alcuna obiezione. Don Raimond gli disse in quali termini avrebbe presentato il suo successore il giorno seguente durante la messa solenne. La domenica mattina Don Toccanier celebrò la messa e Don Raimond tenne il discorso previsto. Nel pomeriggio il vicario, Monsignor Poncet, si recò a Trevaux, ove doveva presiedere alla chiusura di un corso di esercizi spirituali di religiose, e l'ex coadiutore del santo, partì per Beauregard, suo villaggio nativo poco lontano da Ars. In quel giorno, scrisse Caterina Lassagne nel suo Petit Mémoire, tutti i parrocchiani erano contenti perché in aiuto del santo curato veniva un missionario, ma io ero triste. A questa buona donna il segreto pesava assai e verso le 8 di sera si recò da Don Vianney per chiedergli il permesso di tutto confidare alla discrezione di Maria Figliat. «Fate come volete», le rispose il santo. Erano passati appena pochi minuti che le due donne ritornavano da lui piangendo e supplicando. «Restate con noi, non partite». Ma egli si accontentò di rispondere che la sua decisione era definitiva e consegnò a Caterina una lettera indirizzata a Monsignor Chalandon. Anche col nuovo vescovo, Don Vianney aveva creduto di potersi sbrigare prontamente. Ma le sue prime illusioni erano presto scomparse, perché Monsignor Chalandon era intransigente come Monsignor De Vie. Il giovane vescovo, ad una supplica orale di Don Vianney che gli chiedeva di lasciare la diocesi, aveva risposto: «Io lasciarvi partire? Sarebbe per me sì grave peccato che nessuno me ne darebbe l'assoluzione». Dopo la risposta decisiva del santo uomo, Maria e Caterina si fermarono in colloquio vicino alla porta del giardino della canonica per decidere che cosa potessero fare. Il curato, dicevano, così debole, coi suoi 67 anni, non potrà recarsi a piedi fino a Lione. Voi, Maria, gli porterete il cesto delle provviste. Ma e se non potesse continuare il viaggio a piedi? Ci vorrebbe un vetturino. Non c'è purtroppo nessun uomo che possa aiutarci in questo momento. Passò il sagrestano, fratello Gerolamo, e si meravigliò di trovare là fuori di casa Caterina e Maria. Le avvicinò ed un minuto dopo, messo a parte del segreto, avvisò il fratello Atanasio e con lui corse da Don Toccanier, che aveva preso alloggio vicino alla Provvidenza. Il giovane coadiutore in un primo momento pensò che lo si chiamasse per un ammalato in pericolo di morte. «Potete immaginare la mia sorpresa», dirà poi, «quando seppi la notizia, riferitemi da Gerolamo ed Atanasio. Mi pareva impossibile. Ingiunsi loro di montare la guardia alla canonica e di chiamarmi quando veramente il curato cercasse di fuggire e mi coricai vestito. A mezzanotte tre colpi si fecero sentire alla mia porta. Discesi immediatamente coi due fratelli spiando i movimenti del santo curato che alla luce della lampada si intravedeva attraverso le finestre della sua camera. Aveva preso il cappello, il breviario e l'ombrello. «Lasciamolo pure discendere», dissi ai due fratelli. Discese, infatti, e si recò da Maria Figliat e Caterina Lassagne che dovevano accompagnarlo. Ed appena entrato chiese: «Siete pronte? Allora partiamo». Ed uscì, seguito da Maria che portava le provviste e da Caterina che gli rischiarava la via con una lanterna. Allora gli andammo noi pure incontro. Vedendoci, comprese subito che eravamo a parte del segreto e lanciò uno sguardo severo a Caterina, la quale scoppiò in pianto. «Mi avete tradito», le disse. Fratello Atanasio l'interruppe. «Dove andate, signor curato? Volete dunque abbandonarci? Suoneremo le campane a martello». «Noi vi seguiremo in processione», aggiunse il fratello Gerolamo. «Fate pure», rispose il santo, breve e risoluto, «ma lasciatemi passare». «Ebbene, seguiamolo», aveva sussurrato Don Toccanier ai due aiutanti. Intanto fratel Gerolamo aveva preso la lanterna dalle mani di Caterina per essere di guida a Don Vianney nelle tenebre, ma invece di dirigersi verso il ponte del Fomblain lo conduceva verso la strada di Villeneuve. Era stato questo il suggerimento di Don Toccanier, che aveva pensato di far ritornare il santo al suo posto di partenza dopo avergli lasciato fare il giro del villaggio. Ma nonostante l'oscurità densa, egli si accorse presto dell'inganno. Intanto si era formato un vero corteo, composto da pellegrine che, secondo il costume, passavano la notte vicino al campanile e da parrocchiani che si erano risvegliati alle loro grida e tutti accorrevano cercando quelle il loro confessore e questi il padre delle loro anime. Don Toccanier cercava di convincere il fuggitivo. Finalmente si arrivò al fragile ponte di assi gettate sull'uscello. Don Toccanie comprese che sarebbe stato difficile trattenere il curato se fosse riuscito a passare il ponte del Fomblain e prendere la strada di Lione. Giunti perciò vicino al ruscello, risoluto si collocò davanti a lui proprio quando stava per passare il piccolo ponte. «Lasciatemi passare, lasciatemi passare!» supplicava il santo con voce accorata. Don Toccanier vide che aveva sotto il braccio il suo breviario e con rapido movimento glielo tolse e lo diede alla persona più vicina, che era Caterina Lassagne, dicendole a voce bassa «Allontanatevi!» «Rendetemi il mio breviario!» gridava il santo. Poi, quasi sorpreso da un pensiero nuovo, disse a Maria Figliatti «Continuate il cammino, dirò l'ufficio quando sarò arrivato a Lione». «Come, signor curato, lascerete passare tutto il giorno senza dire il vostro ufficio? Bell'esempio!» Erano bastate queste parole per gettare l'ombra dello scrupolo nell'anima del santo, che esitò un momento fra il più solenne silenzio, che poi ruppe con queste parole. «Ho un altro breviario nella mia camera, quello di Monsignor De V. Andiamo a cercarlo», suggerì Don Toccanier, senza accorgersi che già aveva in mano la vittoria. E Don Vianney riprese la via del ritorno, seguito dalla folla sempre più numerosa. Non aveva percorso 30 metri che si intese il suono delle campane, che nella notte parve lugubre mentre annunciava ai fedeli di Ars il triste tentativo che si svolgeva nelle tenebre. «Signor curato, è l'Angelus», gli si disse, e il povero santo, sempre ingenuo e fiducioso, si pose tosto in ginocchio e recitò l'Ave Maria con fervore angelico. «Signor curato», aggiunse l'astuto coadiutore preoccupato di guadagnar tempo, «se recitassimo una decina del rosario per ottenervi un viaggio felice?» Ma questa volta il risultato fu nullo. «No», rispose, «reciterò il mio rosario in cammino». Appena rialzatosi, racconta ancora Don Toccanier, avanzò a grandi passi, si precipitò nel cortile e salì nella sua camera, ove entrai anch'io. Cammin facendo, fratello Atanasio mi rese noto che il sindaco era stato avvertito e che sarebbe presto giunto, onde io, per dare tempo di arrivare al conte di Garez, invece di cercare nella sua biblioteca il libro che gli abbisognava, mettevo in disordine, con le altre carte, anche gli 8 volumi del grande breviario in 8º, ricordo prezioso del vecchio vescovo morto da poco tempo. Quando Don Vianney riuscì a porre la sua mano sul volume desiderato, i miei occhi si incontrarono nel ritratto di Monsignor De V, sospeso alla parete. Ricordandomi che il venerando prelato aveva già impedito altre fughe, divenne l'ispirazione di usare di nuovo di questa memoria e gli dissi con voce ferma: «Signor curato, guardate, Monsignor De V dal cielo vi ammonisce con sguardo severo. Si deve rispettare la volontà del vescovo durante la vita, ma più ancora dopo morte. Ricordatevi di ciò che vi disse 10 anni fa. Turbato da una tale apostrofe, il santo mi rispose con la sua ingenuità di un fanciullo rimproverato dal padre suo: «Sua Eccellenza non mi sgriderà, perché conosce che ho bisogno di andare lontano a piangere la mia povera vita». E senza aspettare oltre, prese il breviario rilegato in marocchino verde e discese le scale. Fatti alcuni passi, per poco non urtò il conte di Garet, che confessò di averlo visto quasi trasfigurato, triste e melanconico. Ed il nostro buon curato, sempre così affabile coi suoi vecchi e fedeli amici, lo ascoltò indifferente, lasciandolo nella convinzione che avesse avuto il presentimento della morte vicina. Or mentre le donne in chiesa pregavano Iddio perché cambiasse le intenzioni del suo servo, gli uomini invasero il piccolo cortile della canonica. Risvegliati dal suono della campana, molti fra loro, credendo si trattasse di un incendio o di una aggressione di ladri, erano venuti portando secchi, forche o bastoni e si agitavano al fioco lume delle lanterne. Quando apparve il curato, furono pronti a sbarrargli il passo supplicandolo di non partire. Ma egli, con l'idea fissa di trovare una via d'uscita, andava da una porta all'altra ripetendo: «Lasciatemi dunque passare, lasciatemi passare!» Questa scena era commovente, confessò poi la pia Caterina, e rappresentava bene la cattura di Nostro Signore nel giardino degli olivi. Michele Tournassud, calzolaio del villaggio, si era messo di guardia presso una porta, ed il curato, venendo da quella parte, lo prese per un braccio fra il sorriso ed il pianto e lo tirò al lato, ma non poté ugualmente aprire la porta, Dopo ripetute suppliche, ottenne finalmente di varcarne la soglia e, giunto fra la canonica e la chiesa, sembrò misurare la strada con lo sguardo, disposto certamente ad un ultimo tentativo. Ma un nuovo fatto venne a cambiare lo svolgersi degli avvenimenti. Le donne, che erano uscite di chiesa, la maggior parte venivano da lontano, si unirono agli uomini, gettandosi in ginocchio davanti al santo ed implorando fra le lacrime: «Padre, prima di partire, confessatemi. Buon padre, non ci abbandonate!» Allora, scrive Don Toccanier, tentando uno sforzo supremo, gli rivolsi queste parole: «Come? Voi, signor curato, che sapete a memoria la vita dei santi, non ricordate più lo zelo di San Martino che, quando aveva già tra le mani la corona del premio, disse: "Non rifiuto il lavoro. Volete dunque abbandonare il campo delle vostre fatiche?" E non ricordate l'esempio di San Filippo Neri che diceva: "Se, arrivato io alla porta del paradiso, un peccatore domandasse il soccorso del mio ministero, abbandonerei volentieri la corte celeste per ascoltarlo?" E voi, signor curato, avreste il coraggio di lasciare incompiute le confessioni di questi uomini e di queste donne venute da lontano? Avevo appena terminato queste parole che le suppliche dei pellegrini raddoppiarono. Don Vianney vide finalmente in queste insistenze la volontà di Dio. «Venite in sagrestia», gli mormorò all'orecchio il conte di Garez, «ho qualche cosa da dirvi». «Vengo», rispose, e alla folla disse: «Andiamo in chiesa». Entrò per il primo e rimase a lungo in adorazione. Passò poi in sagrestia, ove il conte di Garez, rimasto solo con lui, avrebbe voluto ripetere gli argomenti di Don Toccanier, ma non ne ebbe il tempo, perché il curato, senza una parola di risposta, si voltò, prese la sua cotta e si diresse al confessionale. A stento, facendosi largo fra la folla, non senza essersi prima fermato davanti all'altare a recitare coi fedeli i cinque Pater e Ave che era solito dire ogni mattina appena entrato in chiesa. Il lunedì, ritornato alla sagrestia dopo la sua messa, celebrata alle ore 7, chiese a Don Toccanier: «Quello laggiù non è forse Monsignor Ponset?» «Sì, ha voluto rivedervi». «Va bene». Dopo il ringraziamento, tranquillo, come se nulla fosse successo, andò a salutare il vicario generale che di notte era stato cercato a Trevoux e che gli manifestò nuovamente la volontà esplicita di Monsignor Vescovo di conservarlo alla diocesi. In seguito arrivarono anche Don Beu, parroco di Jassin, confessore di Don Vianney, e Don Raymond, che visitarono insieme il servo di Dio. «Noi eravamo al corrente dei fatti della notte», scrive Don Raymond. «Vedendosi circondato nel suo cortile, si era dimostrato un po' impaziente, causa la sovraeccitazione che lo scusava di questa mancanza, perché senza dubbio non era più padrone di sé. Fu quella una delle prove più dure della sua vita, mandatagli dalla provvidenza perché si perfezionasse sempre più nella sua virtù. La mattina del 5 settembre lo trovammo calmo e rassegnato alla volontà di Dio interpretata nella volontà del suo vescovo, e quando gli rammentammo gli avvenimenti della notte precedente ricevemmo questa risposta: "Ho agito come un ragazzo". Un progetto mal riuscito. Ciò che più meraviglia nel fatto narrato è l'indecisione e l'imprevidenza di Don Vianney. Durante la tragica notte dal 4 al 5 settembre 1853 agì con molta esitazione ed incertezza, confidando il suo segreto a due donne, le quali 10 anni prima, in una contingenza simile, non avevano saputo tacere e che avrebbero fatto altrettanto ora, mentre gli sarebbe stato tanto facile domandare a Francesco Pertinan di condurlo a Lione in vettura, ma a questo forse non pensò nemmeno. Se fosse riuscito nel suo progetto di fuga, che cosa sarebbe stato di lui il 5 settembre? Dai documenti che possediamo possiamo concludere che Don Vianney, contando più sul suo coraggio che sulle sue forze, sperava di arrivare a Lione verso le 9 o le 10 del mattino e si sarebbe recato presso il suo cognato Melen, ove una vettura, poco dopo quest'ora, lo avrebbe atteso per condurlo a Nostra Signora della Neilière. È certo che il padre Colin teneva una camera pronta per il curato d'Ars e che lo aspettava. Circa l'ora fissata per il suo arrivo, Il venerabile fondatore rimase a lungo alla porta della sua casa, meravigliato di non vedere arrivare nessuno, e di questa inquietudine mise a parte anche uno dei religiosi, il padre Jobert. Secondo serie testimonianze, il saggio e prudente padre Colin già altre volte aveva consigliato a Don Vianney di rimanere al suo posto, ove avrebbe potuto operare maggior bene. Del resto, anche il padre Leonardo, per il medesimo motivo, lo aveva distolto dall'entrare presso i Cappuccini di Lione. Questo suo terzo tentativo di fuga rimane quindi per noi una cosa dolorosa, piena di mistero e di sconcerto. Credeva, disse Caterina Lassagne, fuggendo, di fare la volontà di Dio, ma fu vivamente colpito quando poco dopo ricevette una lettera nella quale un sacerdote gli diceva che il suo desiderio di solitudine era una tentazione del demonio. Il suo ultimo tentativo di fuga, ha detto il conte Prospero di Garet, fu per lui un vero lampo di luce. Da allora in poi non pensò più a nulla di simile e più non ne parlò. Si dedicò invece completamente e senza altri sogni al suo ministero, andando alla chiesa più presto ancora del solito e restando a lungo al suo confessionale. Malattia e morte del fratello Francesco. Ma se egli non cercò più di lasciare la parrocchia di Ars, vi furono altri che tentarono di allontanarvelo. Una notte del 1854, verso le ore 11:30, da una vettura a due cavalli che si fermò sulla piazza davanti alla chiesa, scesero alcuni uomini che andarono a collocarsi davanti alla porta della canonica. Quando Don Vianney apparve, verso mezzanotte, uno di essi lo prese per un braccio e gli disse: «Se volete partire, abbiamo una vettura a vostra disposizione». «Non ho il permesso del mio vescovo», rispose il santo svincolandosi, ed entrò in fretta nel vestibolo della chiesa. Per il Natale del medesimo anno gli giunse da Dardigli la notizia che Francesco, suo fratello maggiore, era gravemente ammalato. Il santo aveva sempre amato teneramente questo antico compagno di lavoro, questo fratello maggiore, che dopo la morte del padre, avvenuta nel 1819, coltivava il potere familiare. Francesco era forse anche particolarmente caro al nostro santo, perché era sempre rimasto un buon cristiano. Mai, neppure nel tempo del raccolto, lo si vide lavorare in giorno di festa. «Colui che permette alla pioggia di bagnare la terra saprà anche farla asciugare», ripeteva con parole che forse aveva raccolto dalle labbra di Giovanni Maria. Il santo, inquieto di saperlo ammalato, gli scrisse: «Ho ricevuto le tue notizie. Finora, con mio grande dispiacere, me le nascondevano. Ti prego di farmi sapere come stai. Sarei venuto se non fosse l'ottava del Natale. Ti prego di rispondermi subito, anche per alleggerire la mia pena. Arrivederci, caro fratello, spero di rivederti presto. I miei saluti alla sorella, che penso sarà in grande pena». Il tempo passava e Francesco aspettava sempre Giovanni Maria. Il 25 gennaio mandò il figlio Antonio ad Ars con l'incarico di condurgli questo fratello tanto desiderato. Appena si seppe fra gli abitanti di Dardigli che Don Vianney sarebbe venuto, nacque il pensiero di trattenerlo, ma lasciamo la parola ad un testimonio meglio informato, Don Tocanier, che 3 giorni dopo l'avventura, cioè il 29 gennaio, scriveva ad Ars al vescovo di Belley: «Eccellenza, ho l'onore di rendere noto a vostra eccellenza che la vigilanza al mio santo curato, perché non cerchi di fuggire, ormai non mi ispira più nessuna inquietudine. La provvidenza veglia su di lui, visibilmente, per conservarcelo». Il fatto avvenne in questo modo. Il 26 di questo mese Don Vianney, cedendo alle istanze di suo nipote che lo pregava di andare a Dardigli a trovare suo fratello ammalato, venne spontaneamente ad avvertirmi ed aggiunse: «Peccato non ci abbia pensato prima, così non sarei più ritornato». Non potendomi opporre a questo atto di carità fraterna, mi offersi a lui come compagno di viaggio. Egli accettò e partimmo con la vettura del suo nipote, accompagnati dal conduttore e dal sagrestano fratel Gerolamo, che il curato avrebbe voluto far rimanere. Alcuni abitanti d'Ars e pellegrini si inginocchiarono per ricevere la benedizione del nostro santo curato. Indi si recarono in chiesa a pregare per lui, onde ottenergli buon viaggio e pronto ritorno. Le loro preghiere, in quest'ultimo punto, saranno esaudite al di là delle loro speranze. Poco abituato ai viaggi in vettura, indebolito dall'indisposizione che conoscete e che è tanto esagerata dai giornalisti, non poté sopportare lungamente le scosse della vettura ed, arrivato a Percieux molto prima del ponte della Saône, ci disse: «Non posso continuare, mi sento venire meno». La strada era coperta di neve e di ghiaccio. Salendo la collina dei Grand Balm, fu preso dal mal di cuore e dovette discendere dalla vettura per salire la costa a piedi. Tremava. Si voleva tagliare un bastone da una siepe, ma egli si oppose, dicendo che sarebbe stato un furto, e ne comperò invece uno da un uomo che portava alcuni rami d'albero, pagandolo 40 soldi. Fece così 3 o 4 chilometri, lentamente, ora in vettura ed ora a piedi. Infine, da Parcieux ripartì per Ars col vetturino ed il sagrestano. Io, sapendo di fargli cosa gradita ed interpretando il suo stesso desiderio, continuai il viaggio con sua nipote fino a Neuville, dove trovammo un'altra vettura. La strada era così ghiacciata che non arrivammo a Dardilly che a notte. Quale disinganno fu per il povero fratello non vedere corrivare colui che attendeva. Però gli fu gradita la mia presenza. Verso le 10 di sera il parroco di Dardilly, che gli aveva già portato il santo viatico, pensò bene di amministrargli anche l'estrema unzione. Avendo fretta di rivedere il mio santo curato, ripartì per Ars l'indomani mattina e chiesi poi al fratello Gerolamo se non ci fosse stato nessun incidente nel ritorno. Voi sapete, eccellenza, come Don Vianney sia debole. Eppure, ritornando ad Ars, non sembrava più il medesimo. Aveva recuperato le forze e non discese più dalla vettura se non alla porta della canonica. Al suo arrivo passò immediatamente al confessionale e alla sera fece la preghiera come al solito. Ma in questo viaggio vi è anche un episodio interessante. Alla salita di Trevaux, la vettura che conduceva Don Vianney incontrò l'omnibus che fa il servizio da Ars a Lione, pieno di pellegrini i quali, non avendo trovato chi cercavano, erano partiti malcontenti. Riconosciuto il santo prete, tutti lasciarono che il veicolo proseguisse da solo e seguirono Don Vianney al villaggio e alla chiesa. Gli domandammo se fra quei pellegrini ci fossero stati dei vecchi peccatori ed egli rispose che ve ne erano di quelli che non si erano confessati da 40 anni. Vedete dunque, signor curato, che il Dio medesimo vi fermò per condurvi subito all'opera della salvezza delle anime che gli è sì cara. A queste parole egli tacque. Quanto a me, eccellenza, prevedendo che gli abitanti di Dardilly avrebbero approfittato della malattia di suo fratello per fare nuove istanze, domandai al malato se avesse qualche cosa da dirgli a viva voce ed egli rispose che desiderava solamente vederlo. Al ritorno riferii tutto al mio santo curato e fu fortuna, perché 2 ore dopo giunse il vicario di Dardilly che gli disse: «Vostro fratello vuole assolutamente vedervi. Se non potete venire in vettura potrete venire in ferrovia». «Non posso andare», Dardilly, «poco mancò già che restassi per strada. Vostro fratello deve avere qualche cosa di importante da dirvi, altrimenti non sarei venuto». «No, amico mio, so già cosa pensare, perché il missionario mi riferì le parole di mio fratello». La malattia di Francesco era mortale. Visse ancora qualche giorno senza avere la consolazione così legittima di essere assistito nei suoi ultimi istanti dal fratello carissimo Giovanni Maria. 8 giorni prima di morire diceva a sua figlia, che piangeva accanto al letto: «Consolati, non morirò prima del Venerdì Santo». E difatti, nella giornata del Venerdì Santo, il 6 aprile 1855, Francesco Vianney rendeva la sua anima a Dio. Il Sabato Santo suo fratello non pensò neppure di recarsi a Dardilly per il funerale, ma pianse in silenzio anche nella clausura del suo confessionale, ove in preparazione alla Pasqua dell'indomani dovette restare 18 ore di seguito. «Si rassegnò anche a questo», scrisse Caterina Lassagne nelle sue preziose memorie. Aveva compreso che anche quella volta gli abitanti di Dardilly avrebbero fatto un nuovo tentativo per trattenerlo. Bisogna pensare che nel mese di gennaio il Dio abbia permesso la sua fatica eccessiva per impedirgli di cadere nell'agguato. E così Dio fa quello che gli piace, malgrado i disegni umani.